devo dire le cose che sento sempre. Radio Onda Rossa dal 1977, senza padroni, di niente e di nessuno, la meglio radio che c'è stata. La mano sul cuore 2, festa per i 35 anni di Radio Onda Rossa. Ma non erano 36? Sì, ma 36 scattano la settimana dopo. Hai ragione, venerdì 18 maggio, ore 21.30, CSA La Torre, via Bertero 13, Casal de Pazzi. Dalle ore 21.30 saranno con noi, con letture, corti teatrali e musica, Elio Germano, Johnny Palomba, Valerio Aprea, Eleonora Danco, Daniele Miglio e gli Ardecore in duo. Una mano sul core 2, festa per i 35 anni di Radio Onda Rossa. Venerdì 18 maggio, CSA La Torre, via Bertero 13. Ne vorrei prendere sembianza dell'uccello un giorno solo. 2 minuti, apri la letta, andammene lontano. Me voglio servà! Me voglio servà! Lassù tra mezzo all'angeli.